Nel film Gonow di Michael Winterbottom, al protagonista sfugge di mano un martello. Un'altra volta gli si intorpidisce una mano. Un'altra volta al mercato vede doppio un macellaio. Spesso, giocando a calcio per la disperazione dei compagni e dell'allenatore, si mangia gol già fatti. Dopo un po' lo sappiamo. Sono tutti sintomi. Il poveretto è affetto da una sclerosi multipla. Nel frattempo, alla sua amata compagna viene un crampo, ma non gli succede nulla. Quel crampo non era sintomo di nulla. Nel film Ridicule di Patrice Leconte, il protagonista è un ingegnere idrogeologico che si intestardisce a chiedere la bonifica della sua terra natia a Luigi XVI e dalla sua disgustosa corte di lascivi e corrotti nobilastri. Dopo qualche maldestro e vano tentativo rinuncia e torna a casa, ma appena arrivato una zanzara figlia delle sue terre malsane lo punge sul collo. Bene, a questa puntura non segue alcunché di congruo, non è un sintomo. E non è la differenza che impone una svolta narrativa alla vicenda. L'eroico ingegnere si rimboccherà le maniche alla faccia dello Stato e con l'aiuto dei contadini la bonifica se la farà da sé, nonostante le zanzare. Nel film Prove apparenti di Sidney Lumet, il protagonista è un giovane assistente procuratore che, grazie ad un processo americanamente spettacolare, assurge in 448 alle massime vette della carriera. Si innamora di lui l'assistente di un avvocato suo avversario e, man mano che la vicenda si complica e il marcio delle istituzioni viene fuori, sembrerebbe, per dirla con il critico cinematografico Kesich, che costei nasconda qualche piano diabolico. Tuttavia poi le cose andranno diversamente, i sintomi non c'erano. Per dirla ancora con Kesich, la signora aveva in mente solo l'amore. Orbene, per il critico questo fatto, questa addirittura morale del personaggio femminile, è proprio uno dei difetti del personaggio, che allora diventa evanescente. Ed è anche uno dei difetti del film. A Kesich stranamente non viene in mente che la figura dell'assistente dello studio legale avversario che si finge innamorata è già stata usata in numerosi altri film del genere e dunque non si accorge di lamentarsi del fatto che il regista ha evitato quello che ormai sarebbe stato un luogo comune. Le narrazioni evolvono e almeno in tempi ravvicinati certe soluzioni non possono ripetere le precedenti. Tuttavia viviamo tempi così cattivi che basta un personaggio che agisca soltanto per amore, dimenticando gli interessi, la carriera, il denaro, il successo nei mass media, dimenticando tutto ciò, ci basta per farci irrimediabilmente applicare giudizi negativi. I tre film comunque mostrano con evidenza il gioco equilibrato delle differenze e dei sintomi narrativi. Il narratore si sofferma su un micro episodio, ma a volte da ciò ne consegue qualcosa, e a volte no. A seconda del gioco sociale delle attese e dell'andamento ciclico della legge sulla sorpresa. Anche nel film Finanzieri corrotti viene rispettato questo meccanismo narrativo. Siamo nell'Italia degli anni 90, alcune guardie di finanza sono state colte con le mani nel sacco mentre ritiravano mazzette per centinaia di milioni elargiti in cambio di semplici furti a danno dei cittadini italiani, gente che non voleva pagare le tasse e simili. Allo spettatore ingenuo poteva sembrare che si trattasse di una svolta narrativa, ma dopo qualche mese il ministro delle finanze, uno che evidentemente non se la prende molto se gliele rubano, li ha rimesse al loro posto, forti di una nuova consapevolezza di immunità. Allora non era un sintomo, non era una differenza significativa. La realtà disegna trame davvero sorprendenti. Peccato che se sulla moralità delle vicende cinematografiche vegliano i critici cinematografici, sulla moralità delle vicende quotidiane sembrerebbe proprio che non vegli nessuno.